Incontri di Gianfranco Fabi. Semplicemente i migliori di Tina Turner con questa canzone certamente famosa. Iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano. Buonasera Olimpio Stucchi. Buonasera. Olimpio Stucchi, avvocato, giuslavorista, Tina Turner, che c'entra? Tina Turner mi piace come personaggio e mi piace molto la sua musica, perché per me rappresenta qualità e grinta, ma anche attitudine e capacità di reagire agli eventi. E quindi una canzone un po' impetuosa. Eventi nel suo settore ce ne sono molti, è un mondo, diciamo, un po' in tensione, ma è un mondo di grandi cambiamenti. Certo, lo è stato per tanti anni e lo è ancora di più ora. Siamo in un momento di grande effervescenza normativa. Avvocato giuslavorista, vuol dire che si occupa di diritto del lavoro? Sì, certo. E come mai ha deciso da piccolo o da medio o da grande di occuparsi di diritto del lavoro? In origine la mia idea, il mio sogno era di diventare pilota d'aereo. Poi ho convertito questa idea verso la medicina, ma poi a 16 anni ho cambiato definitivamente idea, pensando di diventare avvocato, e durante gli anni dell'università mi sono appassionato al diritto del lavoro. Perché il diritto del lavoro è insieme costruzione e conflitto. Dà la possibilità di esprimere se stessi in molti modi, in una realtà dove l'aspetto sociale, il contatto con le persone è molto forte. Ma il pilota d'aereo, che coincidenze ci possono essere tra il pilotare un aereo, l'avere la responsabilità di molte persone che si devono far decollare, far arrivare, gestire una macchina complessa, un po' il rischio della routine che poi in fondo non c'è mai, che coincidenze ci possono essere con una professione come la sua, come un avvocato giuslavorista? Allora, innanzitutto il grande elemento emozionale. La componente emozionale è fortissima in entrambi i casi, perché quando si gestisce un'operazione, per esempio, di riduzione di personale, il coinvolgimento emotivo nelle vicende è molto forte. E sicuramente bisogna gestire tante persone, tante componenti di un'azienda che devono convergere verso un obiettivo. Ecco, ma il diritto sembra qualcosa di freddo, qualcosa da applicare. È possibile salvaguardare la dignità, l'identità delle persone di fronte a delle realtà certamente complesse, ma delle realtà in cui poi ci sono certe regole che vanno applicate? Sì, è possibile. Forse è doveroso. Certamente. La componente umana è fortissima. Non siamo macchine, non siamo robot. Quando abbiamo a che fare con situazioni cosiddette di redundancy, degli interrogativi anche morali ce li poniamo. Ci rendiamo conto che certe volte delle riduzioni di personale hanno un impatto forte sulle persone, sulle famiglie. Quando poi ci sono in ballo numeri grossi, il senso di responsabilità è molto forte. Ecco, ma in questa prospettiva il diritto del lavoro forse è quello che rischia di dare meno soddisfazioni rispetto ad altri ambiti del diritto, dell'avvocatura. Ci sono forse rami dell'avvocatura in cui sembra, almeno in teoria, esserci meno questo aspetto umano e più un aspetto così, diciamo così, magari scientifico. Apparentemente, innanzitutto il diritto del lavoro non è solo tagli di personale, ma anche costruzione di bellissimi progetti. Per esempio, io in questo anno e nei prossimi anni mi occuperò della costruzione di reti di private banking, che è una realtà bellissima, in grande divenire, è un mercato molto effervescente in cui le banche stanno aumentando le loro reti di promotori finanziari o di private bankers, facendosi un po' anche la guerra tra di loro in sede di reclutamento. E questi sono progetti di costruzione. E questo vuol dire trovare anche dei modelli contrattuali diversi, trovare all'interno della legislazione la possibilità di inserire queste figure? Certamente sì. Certamente sì, andando a decidere di volta in volta qual è lo schema più adatto al caso. Ecco, ma il diritto del lavoro, si ha l'impressione, visto da fuori, visto da un profano come me, che sia qualcosa che cambia continuamente. Il dibattito politico sul diritto del lavoro è continuo. Adesso si è appena realizzato questo Jobs Act, che peraltro ancora in fase di definizione attraverso i decreti attuativi e così via. È una realtà molto magmatica che va avanti. È difficile forse mantenersi a galla in questo flusso e cercare di attuare delle regole che poi nel momento in cui vengono attuate rischiano di essere cambiate. È un momento di grande fermento. La normativa del diritto del lavoro è stata stabile fino a qualche anno fa, quando sono cominciati interventi a catena. E ora, proprio ora, siamo in un momento di grandissima effervescenza. Noi abbiamo avuto il Jobs Act approvato a dicembre. Ci sarebbero 6 mesi per l'emanazione dei decreti attuativi, nella realtà 3 o 4 verranno emanati con il Consiglio dei Ministri del 20 di febbraio. Quindi avremo già le prime novità a brevissimo. Qual è il suo giudizio? Adesso non ci ascolta nessuno. Qual è il suo giudizio su questa novità, su questa legge, su questo Jobs Act? Estremamente interessante da certi punti di vista, perché recepisce le istanze delle imprese, però forse un po' timido perché si poteva fare di più. Innanzitutto dobbiamo considerare che tutta la normativa in materia di licenziamenti riguarderà solo i rapporti di lavoro nuovi, mentre invece tutta la base dei lavoratori già in forza non verrà toccata. A loro si applicherà l'articolo 18 così come lo conosciamo nella legge Fornero. E questo rischia un po' di frenare anche la mobilità dei lavoratori, perché prima di lasciare un'azienda per andare in un'altra, per fare magari un piccolo passo di carriera, però questo comporta anche la perdita di certe garanzie che si avevano prima. Nella realtà rischia di creare due velocità nel mercato del lavoro, vale a dire che c'è chi avrà questo beneficio dell'articolo 18 vecchio testo e cercherà di mantenerlo a tutti i costi, mentre i nuovi avranno la nuova versione. Va da sé che in sede di mobilità c'è da attendersi che i dipendenti che hanno il beneficio del vecchio articolo 18 chiederanno l'applicazione del vecchio articolo 18 come regola contrattuale del nuovo rapporto di lavoro. Quindi sarà possibile per un nuovo rapporto di lavoro mettere nel contratto delle regole precedenti, l'applicazione di regole Certamente. Precedenti. Quindi c'è un po' di lavoro in più per gli avvocati. Sì, ma cosa da poco. Non è questa la cosa fondamentale, no, probabilmente. Certo che no. Cioè i problemi del Jobs Act sono problemi anche di conoscenza poi in fondo da parte del sistema del lavoro. In questo profilo gli avvocati forse hanno minori responsabilità dei giornalisti. I giornalisti forse devono spiegare un po' meglio cosa succede su questo fronte. Una corretta informazione è alla base di tutto. Per esempio, quando si parla di contratto a tutele crescenti, e questo l'ho potuto verificare ancora nelle scorse settimane, c'è la convinzione diffusa che la tutela crescente valga per tutto l'impianto normativo di un contratto. Ecco, la fermo un attimo, spieghiamo poi bene cosa vuol dire questo contratto a tutele crescenti, ma dobbiamo fermarci, mi dicono dalla regia che sono pronte le notizie sul traffico, diamo la linea alla regia, ma restate con noi con l'avvocato Olimpio Stucchi. Incontri. Con ancora Tina Turner, semplicemente il migliore, un titolo certamente un po' ambizioso, ma il nostro ospite di questa sera, Olimpio Stucchi, avvocato, giuslavorista, vuole essere il migliore, quello il migliore certamente doveroso esserlo, soprattutto in una professione come questa, che ha diretto contatto con le persone e che, come dicevamo all'inizio, si tratta anche di salvaguardare la dignità delle persone anche applicando le leggi e applicando anche le leggi dell'economia. Abbiamo concluso la prima parte parlando del Jobs Act, parlando di queste novità che saranno introdotte e avevo interrotto l'avvocato Stucchi quando si stava spiegando che cosa vuol dire concretamente il contratto a tutele crescenti. Come possiamo spiegarlo, avvocato Stucchi? Allora, il contratto a tutele crescenti, a dispetto del nome, nella realtà riguarda solamente la materia del licenziamento, non altri temi relativi al rapporto di lavoro. E la materia del licenziamento è normata con una sanzione indennitaria nel caso di licenziamento illegittimo. Il sistema che conosciamo oggi prevede che nel caso di licenziamento illegittimo ci sia la reintegrazione nel posto di lavoro più il pagamento di certe somme, come previsto dall'attuale versione dell'articolo 18. Adesso, con il contratto tutele crescenti, ci sarà viceversa una sanzione meramente economica nella misura di 2 mesi per anno di anzianità, fino ad un massimo di 24 mesi. Ecco, quindi nel caso di licenziamento illegittimo, che cosa vuol dire licenziamento illegittimo? Licenziamento illegittimo vuol dire licenziamento senza giusta causa o senza giustificato motivo. Si tratta delle cosiddette clausole generali, che poi dopo, davanti al giudice, bisogna andare a riempire. Ed è poi il giudice che decide se il licenziamento è legittimo o non legittimo. Va da sé che lo spazio di valutazione è molto ampio e va anche da sé che le valutazioni che i giudici danno sono spesso molto diverse caso per caso, ovvero tribunale per tribunale. Ecco, e un avvocato o appunto un lavoratore che entra in giudizio non può scegliersi i giudici, c'è molta diversità tra giudice e giudice, tra città e città. Certamente la diversità è notevole, anche se a certe condizioni è possibile scegliere davanti a quale tribunale litigare. In che senso? Nel senso, vabbè, se una vertenza nasce in un'azienda di Milano con un lavoratore di Milano, non possiamo andare a Roma a giudicarlo. Certo, però supponiamo che un'azienda abbia la sua sede principale a Torino e il lavoratore lavori a Milano, si potrà scegliere tra Torino e Milano. E se poi il contratto fosse stato concluso a Roma, si potrebbe fare causa anche a Roma. Ecco, in questo senso c'è anche una diversità di comportamento, come dire, geografica. Sono più di un certo tipo i giudici centro-meridionali e di un altro tipo i giudici settentrionali? Abbastanza sì, ma soprattutto è anche una questione di efficienza dei singoli uffici giudiziari. A Milano abbiamo un tribunale sezione lavoro di livello spettacolare. Ottimi giudici, grande competenza, grande buonsenso nell'applicazione delle regole e anche velocità e tempi di soluzione delle cause molto veloci. Ecco, rispetto ad altri tipi di cause, quelle del lavoro hanno una corsia preferenziale. Non è una corsia preferenziale, sono i giudici che lavorano tantissimo e hanno dei tempi di decisione delle cause molto veloci. Faccia conto che a rovescio mi è capitato di avere cause in Sicilia piuttosto che in Campania e di avere dei processi di primo grado che duravano dai 7 agli 8 anni. Ma rispetto agli altri paesi, l'Italia è molto ricca di contenzioso, cioè un paese dove ci sono tanti avvocati, peraltro. Si dice, esatto, non so se sia vero, che ci sono più avvocati a Roma che in tutta la Francia. È vero, ma anche a Milano ci sono più avvocati che in tutta la Francia, anche perché in Francia i ruoli sono chiusi. Oltre una certa soglia di avvocati non c'è spazio per l'ingresso. Non è così in Italia, da un lato. Dall'altro lato, purtroppo, in Italia non vige il principio di condanna al pagamento delle spese per soccombenza. Vale a dire, se perdi una causa, paghi le spese. E soprattutto paghi le spese come previsto dalla tariffa. Non è così. Spesso i giudici mettono una mano sulla coscienza e compensano le spese, cioè ognuno si tiene le sue. ovvero se le liquidano contro chi ha perso la causa, le liquidano nella misura di un terzo, al massimo il 50% di quelle reali. Quindi, se vogliamo, non c'è una sanzione vera e propria per aver fatto una causa sbagliata. E questo ovviamente alimenta il contenzioso. Ecco, quindi un contenzioso aperto, un contenzioso che è molto ampio, questo è dovuto più agli avvocati, ai giudici, ai clienti, ai contraenti dalla parte avversa? Allora, certamente i clienti sono portatori di istanze di parte e vorrebbero avere ragione a tutti i costi. Certamente gli avvocati fanno la loro parte nel non dissuadere i clienti dal promuovere cause che non hanno senso, ma certamente anche i giudici alla fine fanno la loro, perché quando una parte perde una causa dovrebbe subire la condanna alle spese, se non altro a futura memoria per sé e per gli altri, per non iniziare dei contenziosi che non hanno senso, hanno una bassa probabilità di vittoria. Questa sarebbe una misura certamente deflattiva. Certo, cioè sapendo di avere difficoltà a far valere le proprie ragioni, uno può ritirarsi prima o cercare altre vie di conciliazione. Su questo piano forse ci può essere, si parla molto di conciliazione, di mediazione in questo periodo, può coinvolgere anche il diritto del lavoro? Su questo piano va da sé che già è un piano ben noto agli addetti ai lavori. Tutti gli avvocati, prima di iniziare un contenzioso, cercano un approccio con la controparte per trovare un accordo, e generalmente si va in causa solamente quando questo accordo non lo si è trovato. Questo però a parte certe vertenze di tipo collettivo, con risvolti di tipo sindacale, dove ci sono questioni politiche presupposte e che quindi lasciano poco spazio ad altre valutazioni di mediazione. Ecco, i giudizi si svolgono sempre in maniera, diciamo, fluida. Ho avuto qualche esperienza nella sua carriera, reazioni un po' impreviste alla fine di qualche contenzioso? Certo, ci sono stati episodi di vario genere. Beh, mi è capitato a volte di fare causa avendo 200 o più lavoratori alle spalle che urlavano, me ne dicevano di tutti i colori. Però l'episodio più singolare che ricordo nella mia vita professionale riguarda il licenziamento di un area manager che a seguito di questo, credendo di aver subito un complotto, mise in campo una serie di iniziative mediatiche di grande intelligenza, devo dire, e di grande risalto, perché aprì un sito, scrisse un libro e alla fine fece un film. Addirittura ha trovato un nuovo lavoro con la sua storia, quindi ha dato degli argomenti per costruire una diversa carriera. Certo che sì, ovviamente devo dire che nel tratteggiare i personaggi di tutti questi strumenti ha messo anche me, ovviamente calcando su certi aspetti o inventandosene degli altri, ma la genialità di quest'uomo fu così forte che arrivò una volta a prepararmi un agguato stile Iene fuori dal tribunale, dove fui circondato da un paio di troupe con tanto di telecamera, microfoni, borderò di domande, e mi seguirono per 100 metri sul marciapiede tempestandomi di domande. Ho capito, quindi beh, insomma, l'informazione come mezzo di pressione in fondo, o mezzo di ritorsione. Ma ci avviamo alla conclusione. Io abbiamo lasciato un po' in sospeso anche un altro tema, vorrei ritornare. Il Jobs Act, lei ha detto, è un provvedimento importante che cambia un po' le cose, ma è un po' timido. Che cosa ci sarebbe ancora da fare per rendere più efficiente il meccanismo del lavoro in Italia? Allora, innanzitutto i temi e i problemi riguardano tutta la platea dei dipendenti e non solo i nuovi assunti. Quindi le misure da introdurre debbono valere in linea generale e non avere una classe A e una classe B di lavoratori. E questo vale anche per le imprese con più o meno di 15 dipendenti, peraltro? Il Jobs Act e il contratto a tutele crescenti vale principalmente per le aziende con più di 15 dipendenti. Per quelle con meno di 15 dipendenti restiamo alle norme precedenti, non c'è nulla di nuovo. Il punto vero è che non sono le leggi, le norme che creano posti di lavoro, sono le aziende, le imprese che devono avere una condizione economica di favore. Poi si possono porre delle norme favorevoli alle aziende per agevolare le assunzioni. Però i problemi generali non sono di tipo normativo. Le norme sono un problema, se vogliamo, di rango B. A monte abbiamo un tema di fisco, un tema di costi generali, di energia, tutto sommato un ambiente che non è proprio favorevole alle imprese. Guardi, riassumo però per quanto riguarda il diritto del lavoro. Il diritto del lavoro da 50 anni in Italia è il diritto dei lavoratori, non il diritto delle imprese. Dovrebbe essere il diritto di entrambi. Dovrebbe essere il diritto di tutte e due, perché le parti coinvolte sono due. E quindi ci vorrebbe un diritto del lavoro decisamente più equilibrato e che soprattutto vada a superare quella grande legge, che è lo Statuto dei lavoratori, che oramai ha fatto il suo tempo e Quindi ha fatto i possiamo suoi danni. considerare, per concludere, questo Jobs Act come un piccolo passo, piccolo o medio passo, ma nella direzione giusta comunque. La direzione certamente giusta ha aperto una diga monolitica. Speriamo che questa apertura aumenti e lo spazio riformista decisamente cresca. Ce n'è un gran bisogno. Speriamo che cresca anche l'economia e che riesca anche a superare i problemi che sul fronte del lavoro possono essere anche problemi non solo di contenzioso, ma anche di opportunità, anche di crescita, anche di occasione di lavoro. Bisogna che la normativa vada soprattutto nella logica delle nuove imprese e di creare nuove opportunità di impresa. Il lavoro arriverà sicuramente di Con conseguenza. questa speranza, grazie a Olimpio Stucchi, avvocato Giuseppe Rovista, grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Filippo Reggi in regia, a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora per quel che resta. Buona domenica.